L'elefante e il dragone, la sfida ad alta quota. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. In the remote western Himalayas, there is little evidence of what led to Indian and Chinese soldiers engaging in a deadly brawl at their border on Monday. This is the first incident with fatalities in more than four decades. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano con tutta la squadra, Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Quest'oggi in assistenza c'è Luca Cremonese e in regia ritroviamo Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande, commenti e critiche sul tema che vi proponiamo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Nazionalismo politico, nazionalismo religioso, due leader ingombranti, due colossi geografici ed economici, storia di un conflitto all'orizzonte che forse però non conviene a nessuno. Ecco perché l'elefante e il dragone potrebbero tornare ad abbracciarsi. Dopo i fatti di lunedì sera, almeno 20 soldati indiani morti da parte cinese, non è dato saperlo. Come spesso accade, il regime di Pechino ha degli elementi di oscurità difficilmente penetrabili. Ma che cosa significa quello che è accaduto a 4.000 metri di altezza tra Pechino e Delhi? Lo scopriremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, per cui vi aspetto non solo al 349-238-6666, ma anche su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Detto ciò, iniziamo a sfogliare i nostri dossier. I dossier internazionali sul tavolo qui della redazione di Nessun Luogo è Lontano sono fatti e notizie che arrivano dal mondo e che diventeranno approfondimenti nelle prossime puntate. Invece in una scorsa puntata di Nessun Luogo Lontano vi avevamo parlato delle vicende giudiziarie di Rifat al-Assad, zio paterno del presidente siriano Bashar al-Assad, che è stato condannato poche ore fa da un tribunale francese a 4 anni di reclusione. Ricorderete l'accusa, appropriazione di indebita di fondi statali siriani per l'acquisizione e l'acquisto di un vero e proprio patrimonio personale proprio in terra francese e non solo, 90 milioni di euro. Tanto che il tribunale francese ha disposto il sequestro di tutti gli asset dello zio di Assad sia a Parigi che a Londra. Rifat al-Assad era noto anche come il macellaio di Hama, ma dopo la rottura con il fratello da anni vive in esilio tra Spagna e Francia. Nel 2014 era finito sotto gli occhi attenti e riflettori della magistratura francese per questo suo impero immobiliare a tutti gli effetti tra Londra, Spagna e Francia, e poche ore fa appunto la sentenza che lo inchioda almeno per i prossimi 4 anni. E poi sono alcuni giorni, anche se in queste ore è tornata la calma, che Dijon o Digione all'italiana è letteralmente messa a ferro e a fuoco. E se non fosse che i suoni e le sonorità che sentite arrivino da una piccola sonnolenta fino a lunedì sera città francese, verrebbe da dire che sono suoni che arrivano da una zona di guerra. Che cosa è accaduto? Violenze e scontri hanno posto membri di gang opposte, da una parte delinquenti di nazionalità di origine maghrebina, dall'altra parte ceceni. Motivo scatenante di 3 giorni di delirante violenza per le strade di Dijon è stato l'attacco e il ferimento di un minorenne ceceno per futili motivi evidentemente. E la qualcosa ha richiamato, pensate, centinaia e centinaia di ceceni, diaspora cecena presente in Europa, non soltanto da altre città francesi ma anche addirittura dalla Germania, che hanno ingaggiato una 3 giorni e 3 notti di violentissimi scontri con la comunità di origine nordafricana presente in città. Non si sono limitati ai cazzotti, per così dire, ma nelle immagini che girano sui social, francamente inquietanti, si vedono non soltanto assalti fatti con delle vetture lanciate ad alta velocità contro gli avversari, ma addirittura coltelli e pistole e fucili in pieno centro a Dijon, spranghe di metallo, negozi dati a fuoco. Le autorità di Dijon hanno minimizzato la cosa, promettendo che di lì a poco la situazione si sarebbe calmata, ma questo non è bastato alla città francese, tanto che è dovuto intervenire anche il segretario del Ministero degli Interni francese. Capisco che gli abitanti di Dijon siano spaventati, ma vorrei che capissero che sono qui per dare un messaggio di assoluta determinazione. Faremo di tutto per trovare e arrestare i responsabili. E d'altra parte, evidentemente non sono bastati anche i 60 gendarmi, i 40 agenti del Corpo di Polizia Nazionale, oltre ai rinforzi della Brigata Anticriminalità e i membri del RAID, che è il Corpo Speciale della Polizia di Frontiera, intervenuti per sedare gli scontri e riportare la calma. Con quali conseguenze? Molto ragionevolmente ce ne occuperemo domani in una puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano. Poi andiamo in Siria con il secondo dossier che è qui sul mio tavolo, per raccontarvi che è entrato in vigore poche ore fa, grazie a una mossa dell'amministrazione Trump, il Caesar Syria Civilian Protection Act. Il nome prende le mosse da quello che è stato un disertore, che un nome in codice evidentemente, Caesar, che portò fuori dalla Siria oltre 55.000 immagini fotografiche che inchiodavano il regime siriano in quanto a torture e violenze commesse nelle carceri. Questo pacchetto di sanzioni che promuove l'amministrazione Trump va a colpire il governo siriano, in primis il presidente Assad, per i crimini di guerra contro la popolazione siriana, ma anche contro individui e società siriane che in qualche modo sostengono il regime di Damasco. Secondo le ricostruzioni del Washington Post, i tre settori su cui si concentrano in particolare le sanzioni sono quello militare, l'industria petrolifera e la ricostruzione nelle aree controllate dal governo. Secondo il Washington Institute, gli Stati Uniti sono così, ormai hanno così imboccato in maniera molto molto decisa la via delle sanzioni per costringere il governo di Damasco a fronteggiare le proprie responsabilità di fronte a quello che è accaduto. Il problema è che Bashar al-Assad e Damasco stanno cercando non soltanto di restituire integrità territoriale al paese, ma di risollevarlo da una devastante guerra civile che lo ha attanagliato per oltre 10 anni. C'è una svalutazione monetaria altissima, oltre il 70%, c'è stata un'inflazione che ha fatto rialzare i prezzi di oltre il 50%, e c'è un paese totalmente da ricostruire. Gli analisti si chiedono con queste sanzioni se si colpisce più il regime di Bashar al-Assad oppure la popolazione siriana. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, c'è qualcuno che scrive su Dijon, ma rimando i commenti nella puntata di domani, e c'è qualcuno invece che si spinge più avanti anticipando quelle che sono le analisi, i punti che toccheremo, dragone elefante, potremo icasticamente titolare questa puntata di Nessun Luogo Lontano, non prima però di avervi sottoposto l'ultimo dossier che stiamo studiando io e tutti i colleghi della redazione, che riguarda i rapporti tra Stati Uniti e Germania, ma più in generale tra Washington e l'Europa, perché è notizia di qualche giorno fa che Donald Trump ha annunciato il ritiro piuttosto cospicuo, 9.500 soldati che lasceranno una delle basi, varie basi statunitensi in Germania. Vari ministri tedeschi hanno detto la loro e potete immaginare il tenore delle loro reazioni. Si indebolisce così non soltanto la Germania, ma si va a minare la sicurezza della Germania, dell'Europa e degli Stati Uniti stessi. All'inizio di questa settimana il presidente degli Stati Uniti aveva confermato l'intenzione di ridurre la presenza di truppe americane in Germania, dicendo: stiamo proteggendo la Germania e sono delinquenti, spiegando come lo spiegamento delle truppe in Europa sia arrivato a rappresentare un enorme costo per gli Stati Uniti. Anche questa volta il lessico di Donald Trump è particolarmente acceso, ma il motivo vero è il disimpegno costante ormai dai vari quadranti mondiali, iniziato già con l'amministrazione Obama. Peraltro è bizzarro che venga punita, tra virgolette, proprio la Germania, perché fra i pochi paesi che in seno alla NATO contribuisce corposamente con una quota del proprio PIL appunto al bilancio della NATO stessa. Heiko Maas, ministro degli esteri, ha detto che non ha ricevuto informazioni dettagliate sul ritiro dei soldati statunitensi. Si è pronunciato anche, come potete immaginare, Jens Stoltenberg, che è segretario generale della NATO, e ha affermato, leggo testualmente: non è stato ancora deciso come e quando verrà attuata questa decisione e spera in un dialogo, in modo da vedere carte in tavola, carte scoperte, se davvero è una decisione ormai presa. Questi i nostri dossier internazionali e adesso, Valeria, portiamoci nel confine al momento più caldo e più alto del mondo. La situazione al confine con la Cina è sotto controllo. Abbiamo già avviato il dialogo. Il 16 giugno i rappresentanti dei due paesi hanno avviato il dialogo per risolvere la situazione al confine. A ogni modo, siamo scioccati dal comportamento delle forze indiane che hanno violato il confine due volte per portare avanti attività illegali e provocare i soldati cinesi. Le voci che avete sentito erano rispettivamente del capo di Stato Maggiore, del generale in capo dell'esercito indiano Naravane, e poi invece di Zhao Lijian, che è il portavoce del ministro degli esteri di Pechino. Ma dobbiamo fare un passo indietro per meglio capire questa storia che abbiamo accarezzato nella puntata di ieri di Nessun Luogo Lontano, ma oggi proviamo a scendere un po' meglio nei dettagli. Difficile, ve lo anticipo, perché quello che è avvenuto a oltre 4.000 metri di altezza tra le due superpotenze include anche Pechino, e come sapete le informazioni che arrivano dalla Cina sono spesso rivestite di una certa opacità. Dicevamo, che cosa è accaduto nella notte di lunedì nella valle del Galwan, confine tra Cina e India? La maggior parte delle ricostruzioni che circolano arrivano innanzitutto da Nuova Delhi, proprio per il motivo cui facevo riferimento prima. Pechino non ha versioni ufficiali, si è pronunciato il Global Times, tra pochissimo ve ne darò conto, ma ufficialmente potremmo dire che praticamente non è accaduto nulla. Comunque siamo sull'Himalaya, siamo a quasi 4.000 metri di altezza, in un punto dove l'esercito cinese e quello indiano si fronteggiano periodicamente, a cavallo tra la linea attuale di controllo, l'abbiamo raccontata ieri, il confine disputato dalle due nazioni. La valle di Galwan sorge vicino alle acque dell'omonimo fiume, che in questo periodo dell'anno scorrono anche a 80 km orari, zone inospitali, gole, burroni. In inverno, pensate, la temperatura scende a oltre 20 gradi sotto lo zero. E in questo scenario, in questo paesaggio, cosa accade la notte di lunedì? Bene, che militari cinesi attaccano con sassi e bastoni i soldati del 16° reggimento di Bihar. I soldati reagiscono, chiamano altre pattuglie della zona. Nel giro di alcuni minuti, pensate, vi sono mobilitate almeno 600 persone che combattono a mani nude o con bastoni e mazze avvolte nel filo spinato. Secondo gli accordi, infatti, tra Cina e India, in questa zona i soldati non possono usare armi da fuoco, e così gli astanti si sono dati da fare con mezzi improvvisati. Nonostante queste armi improvvisate, la battaglia dura, o la rissa forse dovremmo dire, in furia per ore. Molti soldati però muoiono cadendo nelle strette gole o nelle acque gelide del fiume, e secondo varie ricostruzioni giornalistiche, soprattutto indiane, alcuni periscono per il troppo freddo. Si parla, bilancio, di almeno 20 vittime indiane, e anche se la Cina non ha diffuso numeri ufficiali, si parla anche di vittime dal lato di Pechino, e ne dà notizia in maniera anche piuttosto ambigua il direttore del Global Times, che è un giornale super conservatore cinese. L'unica cosa sicura in questa nebbia che avvolge quelle vette himalayane è che è il peggior incidente tra Cina e India da oltre 40 anni a questa parte. Ma che cosa significa questo incidente, questa gigantesca rissa ad alta quota? Ve lo spiegheremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, e lo faremo con due ospiti che vado immediatamente a presentare. Elena Valdameri, ricercatrice di storia moderna dell'India all'Università di Erfurt. Buongiorno Valdameri. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. E buongiorno anche a Giulia Sciorati, ricercatrice all'Università di Trento, analista esperta di Cina anche per ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Sciorati, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo forse banalmente, ma sicuramente icasticamente titolato questa puntata Il Dragone e l'Elefante, due pesi massimi a confronto anche attraverso i numeri, che è la prima cosa che vi propongo. Un animale quasi mitologico, invece il simbolo dell'India, in 90 secondi, sentite. Quello tra l'elefante indiano e il dragone cinese è uno scontro al vertice. I due giganti asiatici dominano infatti dal punto di vista economico e geopolitico il continente. Messi a confronto, però, l'India ricopre il ruolo della sorella minore. Pechino e Delhi governano sulle popolazioni più vaste al mondo, quasi 1,5 miliardi quella cinese, poco meno di 1,4 miliardi quella indiana. L'economia cinese ha fatto registrare un PIL nominale nel 2019 pari a 14,4 mila miliardi di dollari, quasi 5 volte superiore ai 2,94 mila miliardi dell'India. I legami economici tra i due paesi sono in costante espansione. Pechino è tra i più importanti partner di Delhi, ma la bilancia commerciale pende a favore del Dragone per un totale di 56,8 miliardi di dollari. Fotografia economica che riflette anche la situazione interna ai due paesi, con l'India che ha il 21,9% della popolazione sotto la soglia di povertà, mentre la Cina solo il 3,3%. Dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, aspetto essenziale nella competizione a livello mondiale, la Cina ricopre la 38esima posizione nella classifica stilata da Global Finance, mentre l'India è solo 60esima. Nel 2019 Cina e India sono stati rispettivamente il secondo e il terzo paese con la più alta spesa militare a livello globale. Il budget del Dragone ammonta a 261 miliardi di dollari, mentre la spesa dell'Elefante si è attestata sui 71 miliardi. Rispetto alla dotazione bellica, la Cina sovrasta l'India in tutti i settori. Pechino è capace di schierare un totale di 2 milioni di effettivi, contro 1,3 milioni di Delhi. I carri armati cinesi superano di 3 volte il numero delle unità corazzate indiane. Il Dragone domina anche i cieli, con un totale di 3.187 velivoli contro i 2.082 di Delhi. I mari cinesi sono solcati da 790 mezzi, tra unità navali e sottomarini, mentre l'Oceano Indiano conta solamente 311 unità, ordigni atomici 270 contro 130. Nell'equazione mancano gli alleati. L'India sarà capace di sfruttare il sentimento anti-cinese di molti paesi a suo favore? Questi i due pesi massimi a confronto, questa è anche in parte la posta in gioco. Tra poco vado subito dalle mie ospiti, non prima di avervi dato conto di alcuni messaggi arrivati al 349-238-6666, come quello di Diego, che credo che vada a cogliere molto bene il segno, dicendo: il Dragone si muove ed è ingombrante. Lunedì l'incidente a 4.000 metri di quota con l'India, a quando l'incidente a livello del Mar Cinese Meridionale con le navi statunitensi? Tanti messaggi sono arrivati proprio in questo senso. Partiamo chiedendo un commento alla professoressa Valdameri, lo ricordo, insegna storia moderna dell'India all'Università di Erfurt. Un primo commento su questa strana battaglia combattuta praticamente a mani nude e a 4.000 metri di quota. Valdameri. Sì, diciamo che l'ha spiegato molto bene lei. Non sappiamo esattamente cosa sia successo nella DAC orientale, proprio perché è un'area remota, di difficile accesso, e pertanto le informazioni che abbiamo sono quelle ufficiali da parte dei rispettivi eserciti e governi, anche se l'India è stata più vocale in questo caso. India e Cina si accusano e si additano vicendevolmente per non aver rispettato gli accordi, aver oltrepassato la linea di controllo che, come dicevate, è appunto un confine conteso stabilito in seguito alla guerra sino-indiana del 62. Sembra che la scintilla di queste recenti tensioni, che si sono protratte per circa un mese, sembra essere stata appunto la costruzione di una strada da parte dell'esercito indiano che porta a una base aerea remota nella valle del Galwan, che è una valle in cui scorre questo fiume omonimo che collega l'Aksai Chin, che è la zona dell'Himalaya controllata dalla Cina, e il Ladakh, cioè il territorio dove è avvenuto questo scontro. Sì. Pare che questa strada sia stata costruita, secondo fonti ufficiali indiane, nel territorio indiano, ma che la cosa non sia piaciuta ai cinesi. Ecco, la funzione di questa strada, Valdameri, prima di passare la palla a Giulia Sciorati, perché ci si chiede questo tipo di infrastrutture viarie a cosa servono a 4.000 metri di quota, dove non vi sono particolari risorse, pochi villaggi, perché costruire strade? Si tratta di una serie di provocazioni e controprovocazioni o che altro? Certamente la costruzione di queste infrastrutture indica, come dire, marca il territorio. Questo è certamente un fatto. In particolare di questa strada non sappiamo molto, perché quando si tratta di confini, di questioni militari, anche le informazioni che abbiamo dall'India sono abbastanza opache. Secondo le fonti, secondo report giornalistici, pare essere una strada appunto che collega i villaggi con questa base aerea, che può essere un avamposto importante per avere accesso all'Aksai Chin. appunto quest'area che è controllata dalla Cina, ma che l'India considera come parte integrante del proprio territorio. Sì. Dalla voce di Elena Valdameri, lo ricordo, ricercatrice di storia moderna dell'India all'Università di Erfurt, a quella di Giulia Sciorati, analista di ISPI, ricercatrice anch'ella all'Università di Trento, esperta di Cina. Aggiungiamo un tassello, Giulia Sciorati, perché di strade e di arterie la Cina ne sa qualcosa. Il Ladakh, quanto è importante per la famosa Via della Seta, al momento praticamente bloccata a causa emergenza Covid e trappola del debito, come scrivevi in un paper per ISPI proprio recentemente. Cosa c'entra quella remota zona con la Via della Seta? Beh, la zona della DAC è una zona relativamente importante per lo sviluppo della Belt and Road Initiative. È questo interrogativo geopolitico per la Cina da circa due secoli e non è la prima volta che ci sono degli scontri. Già nel 2018 era un'altra strada spinta cinese Belt and Road che aveva scatenato dei conflitti. La differenza quest'oggi, come spiegavate molto bene prima, è che ci sono state delle vittime, quindi porta la competizione, il confronto a un livello diverso. Sì. Interessante notare però adesso, e soprattutto in riferimento alla questione della DAC, è come tra gli svariati capisaldi della Belt and Road Initiative c'è anche il tentativo cinese di smussare l'opposizione tra Pakistan e India, non solo per buone intenzioni di Pechino, ma anche per interesse personale cinese. Il Pakistan infatti fornisce alla Cina accesso all'Oceano Indiano tramite il corridoio della Belt and Road Initiative sino-pakistano, che è il fiore all'occhiello. Mentre l'economia indiana potrebbe diventare un nuovo motore per la vista, appunto, la dimensione vastissima dell'economia, ma Pechino sa bene che finché ci saranno tensioni tra i due paesi, l'India non guarderà alla BRI, e tutta l'area in cui il Ladakh è inserito è sicuramente un'ulteriore fonte di tensione nel triangolo tra i tre paesi. Dalle parole di Giulia Sciorati emerge un tassello in più che proviamo ad aggiungere in questa analisi di questa puntata In nessun luogo è lontano. Quel piccolo tassello rientra nel più grande disegno della Belt and Road Initiative, che Giulia Sciorati, lo ricordo in questo paper che ho da poco letto e che citavo, diceva attenzione perché i lavori sostanzialmente, i cantieri nel mondo si sono fermati a causa del Covid-19 e poi i paesi che si sono fortemente indebitati per costruire le infrastrutture a questo punto hanno anche un serio problema finanziario. Piccola storia, ma se mettiamo il grand'angolo capiamo che tutto è legato. Tra pochissimo, dopo l'informazione finanziaria, torno ai vostri messaggi al 349-238-6666 e vi anticipo che avremo anche un paio di chicche, un paio di ospiti internazionali. State con noi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun luogo è lontano, la sfida tra il dragone e l'elefante si è svolta negli ultimi giorni ad alta quota, 4.000 metri di altezza, è quello che vi raccontiamo, cercando però di mettere non solo il grand'angolo per capire meglio i tasselli, il puzzle nel suo complesso, ma anche cercando di sfregare la sfera di cristallo, e farò tra pochissimo con la voce di Harsh Pant, che insegna relazioni internazionali al King's College di Londra, ricercatore presso l'Observer Research Foundation di Nuova Delhi. Non prima però di aver dato conto di alcuni messaggi arrivati al 349-238-6666, c'è qualcuno che è stato in Ladakh per fare trekking in quota, si sgancia diciamo dall'analisi geopolitica celebrando quei luoghi meravigliosi, ma ricordando che le autorità indiane dicevano state attenti ai soldati cinesi, ma questo mi sembra anche abbastanza evidente visto le narrative dei due paesi. Qualcun altro ricorda che in India, oltre alla tensione storica con la Cina, sta nascendo un forte sentimento anticinese a causa del coronavirus e molti politici si stanno allineando alle idee di Trump, che considera la Cina responsabile dell'epidemia, così Nico da Imperia. Dicevo, andiamo da Harsh Pant, King's College di Londra. C'è il rischio di un'escalation del conflitto? Sentite. I am not so sure that this will escalate any further or that, because I think there are no incentives on either side to escalate it. Non sono sicuro che la situazione si aggraverà ulteriormente, perché a mio avviso nessuno dei due paesi ha motivazioni che possano portare a far salire la tensione fino a rendere ingestibile la situazione. Penso che l'escalation ci sia già stata, con l'uccisione dei soldati di entrambi gli schieramenti, e che adesso, sia da Pechino sia da Delhi, si cercherà di abbassare le tensioni per tornare a un clima più stabile e per mettere in campo opzioni diplomatiche per risolvere il problema più immediato. Quello che è certo è che la risoluzione del problema del confine non si realizzerà in tempi brevi. Penso che al momento la prima mossa sarà quella di abbassare la tensione, anche se al tempo stesso, nel breve periodo, potremmo anche assistere ad alcune dimostrazioni di forza da parte dell'India e della Cina. Ma non penso che assisteremo a un vero e proprio conflitto lungo il confine. L'analisi e la voce di Harsh Pant, docente di relazioni internazionali al King's College di Londra, fra le altre cose, quindi rischio di escalation, secondo il collega delle mie due ospiti, piuttosto remoto. Elena Valdameri, è così? C'è, come dire, una dipendenza anche economica da parte dell'India su Pechino che fa sì che l'elefante sia molto molto cauto in questa cristalleria in cui è entrato? Diciamo intanto che quanto dice Harsh Pant, ci sono già stati segni di distensione in seguito a conversazioni telefoniche avvenute nel pomeriggio indiano tra i ministri degli esteri Yang, sì, e Jai Shankar, che hanno dichiarato di voler risolvere la questione in modo bilaterale e pacifico. Questi, sì, sono sicuramente dei segnali positivi. C'è certamente la questione economica e una forte dipendenza, come veniva detto nella vostra registrazione, sì, con l'India che esporta, che importa moltissimi beni dalla Cina e è il secondo partner commerciale per l'India, appunto dopo gli Stati Uniti. C'è da dire tuttavia che la retorica nazionalista non aiuta certamente questa situazione. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, infatti, come il suo partito nazionalista indo, ha perseguito una politica estera muscolare vigorosa, quantomeno, sì, a livello discorsivo, sì, enfatizzando il ruolo crescente dell'India nel mondo. Un altro fatto che non è stato considerato finora è che dopo la rielezione di Modi, Amit Shah, cioè il ministro dell'interno indiano, ha dichiarato di voler riprendere l'Aksai Chin, che è appunto il territorio conteso tra, sì, i due paesi, ma che è di fondamentale interesse strategico per la Cina dal momento che collega Tibet e Xinjiang. Sì. E poi chiedo scusa, la interrompo, sì, Elena Valdameri, poi magari se avremo tempo torneremo su questa ambizione indiana di ricostruire questa sorta di India immaginifica, un tempo dell'Eldorado, questa sacralità quasi dei confini che in questo momento sono incrinati da questa diatriba, da questa disputa. Voglio però prima andare da Giulia Sciorati e dopo vi faccio sentire, visto che la Valdameri ha messo sul piatto, diciamo, anche il tipo di leadership sia di Nuova Delhi che di Pechino. Giulia Sciorati, c'è, come dire, una più generale mancato riconoscimento da parte della Cina di questa potenza, quella indiana, che ambisce a ruoli geopolitici importanti, ma Pechino non ne vuole sapere, come se, come dire, l'elefante stesse diventando sempre più grosso, ma il dragone non ne vuole proprio sapere di legittimarlo, di riconoscerlo. È una visione che c'entra il punto o c'è qualcosa di più? Beh, una cosa che c'è da ricordarsi sempre quando si parla di Cina e di India è che l'India è per Pechino il grande rivale regionale. Il rapporto tra le due potenze è incardinato proprio in questo assunto, in qualsiasi ambito, anche nel riconoscimento, nell'appoggio di Delhi nel grande scacchiere internazionale e soprattutto regionale da parte cinese. Al centro però rimane l'idea di un confine poroso in un'area che è sensibile per entrambi i paesi. Se da una parte l'India, la questione Kashmir, come nominava la collega, dall'altra la Cina, con Tibet e Xinjiang ad ambo i lati dei territori contesi, non soltanto per il collegamento, ma perché queste due regioni sono due regioni autonome su cui Pechino fa molta fatica a mantenere il controllo e che in un momento di crisi come quello lasciato dal coronavirus è ancora più importante che questo controllo venga in qualche modo trovato. Certo. Pertanto, certo, contese con l'India non aiuterebbero sicuramente Pechino. Certo. E propongo a entrambe le mie ospiti, lo ricordo, Elena Valdameri, esperta di India, Giulia Sciorati rispettivamente invece di Cina, di ascoltare insieme quello che è il commento di Avinash Godbole, docente di studi internazionali alla OP Jindal Global University di Mumbai, esperto proprio di relazioni Cina-India, che è al cuore di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, perché al di là dell'ingombrante leadership sia di Xi Jinping che di Narendra Modi, È evidente che queste leadership sono attorniate da consulenti, da personalità di alto rango, di alto livello. Non è che la presenza di qualche falco in questo momento stia soffiando sul fuoco, sentite? In India c'è sempre stata una parte dell'opinione pubblica schierata su posizioni anticinesi. In passato abbiamo avuto delle relazioni molto rancorose tra le due nazioni. Oppure queste relazioni da rancorose sono diventate semplicemente fredde. Quindi sì, ci sono dei falchi anticinesi nell'amministrazione indiana e sanno di poter contare su una vasta porzione dell'opinione pubblica. Io penso che comportarsi a priori da falchi non corrisponda a quello che si richiede a un alto ufficiale di un esercito moderno. E questi ufficiali non svolgono un buon lavoro nel quadro delle relazioni tra India e Cina. Tutto questo non sarebbe mai dovuto succedere, ma tra India e Cina esistono protocolli e procedure. E se queste procedure vengono seguite, beh, i falchi da entrambe le parti rimangono isolati. Sono sicuro che alla fine la buona volontà prevarrà. La voce di Avinash Godbole, insegna studi internazionali alla Hopjindal Global University di Mumbai. Facciamo una piccola pausa, torno tra pochissimo ancora con questo braccio di ferro, casomai fosse possibile, tra un elefante e un dragone, subito dopo la viabilità. Promo 24. Riprogettare i processi, digitalizzare la supply chain o adottare sistemi di business intelligence prima dell'emergenza sanitaria non sembrava urgente, ma ora è vincolante per il futuro delle aziende. Sorma, gruppo Centropaghe, che da 40 anni informatizza aziende manifatturiere multisettore e internazionali, realizza progetti di innovazione e offre soluzioni custom di MES, logistica di magazzino, Salesforce Automation, fatturazione elettronica, business intelligence e analytics. Il software SI5 ERP di Sorma coniuga funzionalità potenti con la tecnologia e la digitalizzazione. Con la nuova versione web del software SI5 ERP di Sorma, gruppo Centropaghe, i dati sono accessibili da remoto H24. Visita sorma.com, ERP e Digitech per aziende sfidanti. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano torniamo a parlare di quel incidente, come qualche analista e giornalista lo ha definito. In realtà è stata una rissa, una battaglia vera e propria, un conflitto. Oltre 600 persone coinvolte, secondo la stampa soprattutto indiana. Di sicuro almeno 20 soldati indiani uccisi a 4.000 metri di altezza nella regione contesa del Ladakh. Ma grazie alle nostre ospiti e ai tasselli che minuto dopo minuto stiamo cercando di aggiungere al puzzle, stiamo comprendendo che in gioco c'è molto di più. C'è una volontà egemonica sia da parte di Pechino che da parte di Delhi. Forse un mancato riconoscimento da parte di Pechino del peso crescente che Delhi vuole assumere. In tutto questo un ruolo molto importante lo giocano da una parte i leader, Xi Jinping e Narendra Modi rispettivamente, ma anche le opinioni pubbliche popolari. E proprio questa è la domanda che giro immediatamente a Elena Valdameri, lo ricordo, Università di Erfurt. E in un pezzo del Financial Times viene citato un analista, Bilari Kausikan, National University of Singapore, il quale dice: sia Modi che Xi Jinping hanno utilizzato da sempre delle narrative molto nazionaliste, accese di spirito nazionalistico, ma anche se volessero portare a una distensione di questa situazione è come se la pubblica opinione chiedesse invece un innalzamento della tensione. È possibile che, come dire, a forza di fare il leader super muscolare, alla fine devi anche agire fisicamente perché l'opinione pubblica ti spinge in quel senso? Quanto vale questa cosa in India? Ma diciamo che abbiamo un precedente interessante negli eventi accaduti l'anno scorso con il Pakistan. Infatti c'è stato un attacco terroristico suicida in Jammu e Kashmir, di cui il governo indiano ha accusato gruppi terroristici pakistani, sì, finanziati da Islamabad, e Modi ha deciso in seguito a questi fatti di attaccare il Pakistan. Questo fatto ha contribuito alla sua popolarità di leader decisionista e anche alla sua seconda vittoria nelle elezioni generali, sì, pochi mesi dopo. Io mi trovavo a Delhi durante quelle settimane e c'erano ristoranti e negozi che offrivano sconti per celebrare questo attacco contro il Pakistan, questo decisionismo indiano, e questo credo la dica abbastanza lunga. Certo. E poi c'è da tener conto del fatto di cui si è anticipato prima, ovvero che nel discorso politico indiano i confini, e questa è una caratteristica che ha le proprie radici negli inizi del movimento anticoloniale alla fine dell'Ottocento, sono investiti di una valenza sacra, simbolica, inviolabile, e questo discorso li rende irrinunciabili agli occhi dell'opinione pubblica, che viene facilmente mobilitata sulla base di questi temi, e questo li ho visto in questi ultimi giorni in occasione di varie manifestazioni pubbliche a sfondo anticinese. Chiaramente non sappiamo quanto siano spontanee, certo, ma ne abbiamo viste le immagini. Sì, la sacralità dei confini, quei confini che sono irrinunciabili e in alcuni casi invalicabili, fatto salvo quello che è accaduto lunedì nelle parole di Elena Valdameri, Università di Erfurt. Giro la stessa domanda che era per Giulia Sciorati, analista di ISPI e ricercatrice all'Università di Trento: quanto Xi Jinping sia schiavo del sostegno popolare? Forse viene un po' da sorridere in un colosso come la Cina con un solo partito, forse Xi Jinping non ne ha bisogno, o sì? No, in realtà no, e anzi, la politica di accentramento che si ha portato avanti da quando è diventato segretario generale del partito nel 2012 può essere in realtà un asset verso la distensione. Abbiamo già visto e nominato prima tutti i richiami del ministero, dei portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino per la cooperazione tra i due paesi, ma se pensiamo soprattutto al grande evento di raccoglimento politico che si è tenuto qualche settimana fa, le cosiddette due sessioni, ci è stato delineato un po' il profilo della Cina post coronavirus e ci è stato chiarito quanto si guardi alla stabilità del paese, la stabilità interna e la stabilità regionale. L'abbiamo visto con la proposta di legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong, che ai nostri occhi potrebbe essere invece considerata una fonte di instabilità, ma che a occhi cinesi sì, è un modo per mantenere la stabilità interna e iniziare la ripresa. Pertanto le tensioni militari con l'India sarebbero assolutamente controproducenti e andrebbero in qualche modo fuori dalla linea tracciata ora e seguita ora con forza dalla leadership. Ecco, quasi a confermare questa sua analisi, Giulia Sciorati, Università di Trento, e ISPI, una breaking che viene battuta adesso delle agenzie: tra circa 4 ore Mike Pompeo, segretario di Stato statunitense, incontrerà il capo della diplomazia cinese Yang Jiechi alle Hawaii in un summit che è molto molto atteso, 9:09 ora locale, per sottolineare quanto comunque Pechino continui a sforzarsi di creare un clima di distensione. Evidentemente è al centro del riflettore in questi mesi per tutto ciò che è accaduto. Vi faccio sentire ancora la voce di Avinash Godbole, OP Jindal Global University di Mumbai, esperto di relazioni Cina-India, che in una risposta si spinge a tratteggiare il tempo necessario per risolvere la crisi che è accaduta alcuni giorni fa, lunedì sera, lunedì notte proprio, in quei 4.000 disgraziati metri di altezza. Beh, questi incidenti alla frontiera tra Cina e India sono in crescita dal 2011, ma la valle di Galvan, dove questa imboscata è avvenuta e dove i nostri soldati sono stati uccisi, non era una delle aree rivendicate dai cinesi. Non lo è mai stata. Da parte indiana stiamo osservando che la strategia cinese consiste nell'avanzare, ritirarsi un po' e poi proseguire in continuazione, un pezzo alla volta. Ma allo stesso tempo, l'India ha il diritto di costruire le sue infrastrutture all'interno del suo territorio e la Cina non può negarglielo. Ogni volta che l'India ha cercato di stabilire un meccanismo comune su questo punto, la Cina lo ha negato. Quindi la Cina deve smetterla di opporsi a questo processo. Abbiamo un esteso numero di protocolli e procedure per queste situazioni, accordi che risalgono agli anni 90 e arrivano fino al 2013, accordi che la Cina deve rispettare. Questo è il punto più importante. Penso che dopo questo incidente queste procedure saranno modernizzate in modo da controllare gli eserciti. Forse questo sarà un processo lungo da stabilire, ma potrà servire a evitare ulteriori crisi, a differenza delle procedure precedenti. E così Avinash Godbole introduce un tema interessante, quasi che può suonare quasi come un tecnicismo, cioè introdurre delle procedure tecniche militari molto molto precise per fare in modo che tutto ciò non avvenga. E in ultima istanza, qua vengo all'ultimissima domanda, prego le mie ospiti di essere telegrafiche in questo: vuol dire che grazie a queste procedure, questa interconnessione economica strettissima, questo guardarsi a distanza, forse il dragone e l'elefante torneranno a danzare insieme? Valdameri e poi Sciorati, ma davvero telegrafiche, che poi chiudiamo. Ma vedremo se questa buona volontà, questi tecnicismi, come li ha definiti lei, funzioneranno. Certamente bisognerà tenere conto anche dei precedenti storici, come certo. appunto la guerra sino-indiana, in cui l'India ha perseguito una politica di avanzamento scellerata, senza però prepararsi dal punto di vista militare né da quello della politica estera. Certo. Sembra comunque una consapevolezza che rincuora quella indiana di sapere di non essere in grado di affrontare la Cina al momento e quindi sì. di doverla affrontare dal punto di vista della rivalità economica, anche sì. se si vedrà se ne sarà in grado o meno. Ecco. Certo. Giulia Sciorati, c'è un peso specifico maggiore evidentemente da parte di Pechino. Basterà far danzare il dragone con l'elefante o se lo mangerà questo... Beh, si spera che sia così, ma concordo con la collega riguardo la questione della memoria storica. Forse un tassello in più che potrebbe aiutare nella distensione è proprio la questione della ripresa economica certo. e della call verso la regionalizzazione della ripresa e la cooperazione regionale certo. che potrebbe dare un'ulteriore spinta a una distensione. Grazie mille Giulia Sciorati, grazie mille Elena Valdameri. Interrompo così la discussione, benché piacevole e interessantissima, perché Valeria Bernardi mi dice una cosa. Al quale obbedisco, ringraziando tutti voi che siete stati all'ascolto, alla squadra di Nessun Luogo, e vi do appuntamento domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.